Bella raga, più su, scendere. Ti svegli la mattina, ma invece come prima, pensavi fosse un nuovo giorno, ma è molto ancora incollata, solito porno, vuoi arrivare a 60 anni con tanta gente intorno, pensi di vivere, dove c'è aria buona sopra i monti, con il silenzio, senza dover fare i conti, preparare i tuoi nipoti, soli ti racconti, vivendo questo stato marrotoli, ma ti cerchi di confincere, nelle guagliate dei popoli, ci vorresti far credere di avere i diritti e doveri, quando ci pensi di mettere tutti sotto con i tuoi poteri, non credo molto se fanno di cambiare un Italia con mai si è fatta dimenticare. Yeah, Bristole, c'hai il rap. Da sempre all'estremità di questo posto ci sono uomini che per l'Italia non hanno un posto, intanto tutti a New York, a Brindisi, di qua o di là, perché parli sempre che siamo qua, qua, qua. Cercati una ragazza perfetta da condividere la noi fetta perfetta, una fetta per me che sto qua, una fetta per c'è in l'epoca che sta là. Noi cerchiamo un sentiero che rappresenta ogni nostro pensiero. Li poniamo le armi di ribellione, ma sarà troppo tardi, brutto cazzone. 1x1x1, il gioco sta schedina per diventare qualcuno. 1x1x2, alcune donne battono in strada alle 2. 1x1x1, il gioco sta schedina per diventare qualcuno. 1x1x2, alcune donne battono in strada alle 2. Abbiamo impugnato le armi di ribellione, come dice il mio frate è un gran cazzone. C'è da sistemare tutto, anche l'alimentazione, per non parlare poi dell'importazione. Importiamo dalla Cina e ci intossichiamo con la mozzarella blu mentre la mangiamo, e il prosciutto fosforescente non lo digeriamo. Ciò che mangiamo adesso non lo sappiamo, noi non lo sappiamo proprio. Noi non lo sappiamo proprio. Noi non lo sappiamo proprio, noi non lo sappiamo proprio. Ormai sappiamo che il passato è passato, non compriamo più roba di artigianato, riempiamo le tasche grandi imprenditori, che in cambio ce ne danno di tutti i colori. E tu non sai perché muori, è colpa di questi imprenditori. E tu non sai perché muori, è colpa di questi imprenditori. E tu non sai perché muori, è colpa di questi imprenditori. E tu non sai perché muori, è colpa di questi imprenditori. E tu non sai perché muori, imprenditori. E alla fine bisogna sempre e comunque pagare, perché se non paghi non vai da nessuna parte, perché noi paghiamo per vedere chi gioca con la palla. Io la palla la uso al mare per tenermi a galla, loro la usano per risolvere i loro problemi, intanto lo Stato guadagna con i nostri sistemi. Scusa, posso farti un'intervista? Grazie. Secondo te con quali giochi prende lo Stato i soldi? Ma è facilissimo, con le scritte, la donna, il gioco dell'otto, il gratta e vinci, dopo io perdo sempre, poi non mi viene nient'altro in mente. Ma scusa, la telecamera l'hai pagata, spegnila che mi è venuto tanto il gioco in mente, con i monopoli, i tassi.